Tempo di Sport con Carlo Genta. Spero di fare una carriera importante nel Real Madrid. Il Real Madrid sarà un'occasione importante per entrare nella storia con grandi conquiste. La mia intenzione era quella di continuare a giocare nel Milan, ma la crisi economica ha colpito molto le società di calcio, principalmente quelle che sono imprese, come il Milan. Ho quindi parlato con la società e siamo giunti alla conclusione che la cosa migliore per tutti era quella del trasferimento. Ora ho 27 anni. Da giocatore ho avuto tutto quanto potevo conquistare. Sto andando in un posto dove arrivo come uno dei migliori del mondo, ma dove ancora non ho conquistato niente. Questa è la mia grande motivazione. Buon pomeriggio a tutti, Laura Ravanossi in redazione, Pietro Lacorte in regia, Carlo Genta sottoscritto qui al microfono questa settimana, la prossima toccherà per intero a Gigi Garanzini. Come previsto da mesi, Kaká va via, va al Real Madrid. Come previsto mercoledì scorso invece da Silvio Berlusconi, la risposta arriva il lunedì post-elettorale nottetempo. Avete sentito ora la conferenza stampa di questa notte in Italia di Kaká dal Brasile. Le cifre, quelle che si sanno, milione più, milione meno, da 65 si dice in Italia, o 68, 67,3 si scrive in Spagna, che il Real Madrid versa al Milan, 9 a Riccardino per 6 anni, 9 netti, che gli corrisponderà Florentino Perez. Quando è il caso di parlare di Milan? Innanzitutto parlerete voi ascoltatori all'800240024 o scriverete messaggi al 349-238-6666. Quando è il caso di parlare di Milan con assoluta cognizione di causa andiamo a cercare Alberto Costa, inviato del Corriere della Sera, anche se si trova grosso modo dall'altra parte del mondo, e cioè in Sudafrica. Ciao Alberto e grazie. Ciao. Senti, proviamo ad ambientare un attimo la tua telefonata. Ti trovi a Pretoria, vero? Ma dunque ci troviamo in una zona in realtà tra Johannesburg e Pretoria, sono zone molto vaste, ampie, comunque sì, la zona è quella, diciamo che probabilmente la più è quella dove si ha meno la sensazione di essere in Africa, perché si continuano a percorrere tangenziali per raggiungere qualsiasi posto e nell'articolo di oggi non mi è stato tagliato, perché io non riesco a leggere i giornali italiani. Ho scritto che sembra di essere anziché a Sesto San Giovanni, a Sesto San Johannesburg. Confermo tutto. C'è veramente poco, anche come clima, fa freddo qui inverno, tanto per dirvi, adesso indosso un bel piumino d'oca. Confermo tutto, scrivi: la nostra Africa è una tangenziale da fare avanti e indietro, capannone industriale ai bordi e zero fascino, per dirla alla José Mourinho. Più che a Johannesburg sembra di essere appunto a Sesto San Johannesburg. Quindi il clima è questo, non il Sudafrica meraviglioso dagli spazi sterminati e dalle grandi meraviglie naturali che possiamo da qui immaginare, ma un paesaggio un po' meno attraente. E dal punto di vista della sicurezza come siamo messi, Alberto? Ma dunque, dal punto di vista della sicurezza, se diciamo che certo ciascun paese ha dei problemi, lo sappiamo bene anche noi in Italia, le nostre periferie, anche le nostre città, non sono sicuramente dei posti dove poter, in certe zone non puoi camminare da solo di notte, soprattutto se sei una donna. Diciamo che qui forse c'è ancora più attenzione, perché il paese sta vivendo da un po' di anni una fase di transizione, per cui c'è parecchia criminalità spicciola, qui la vita umana ha un prezzo bassissimo, per cui in questo momento mi trovo in un ristorante, la proprietaria romagnola italiana sostiene di aver già avuto 3 o 4 volte la rivoltella, una volta la tempia, una volta l'anca, le hanno portato via la borsetta, sono venuti del suo ristorante anche di mattina, quindi lei che ha fatto, può fare i termini di paragone con l'Italia, dice qui la situazione è peggiore, si vede, perché ciascuno di noi viaggia con le guardie del corpo. Forse hanno esagerato gli azzurri, perché risulta che addirittura ci siano 70 uomini a proteggere la squadra, adesso capisco tutto, forse 70 è un po' troppo, però effettivamente andare in giro da soli qua è veramente rischioso e devi sempre essere scortato da qualche bodyguard. Questa è la situazione. E lì con voi appunto pranza anche la security. Ma dimmi del Milan, che come hai scritto un paio di volte la settimana scorsa, per la prima volta nella sua storia ha in mano una bandiera vera. C'è chi dice precedente Shevchenko, ma non è proprio la stessa cosa questa, eh? No, non è la stessa cosa, è una storia completamente diversa, perché Shevchenko fu lui a chiedere fermamente di essere ceduto e quindi è assolutamente diverso al caso di Kakà. Comunque quando Shevchenko venne ceduto, se ne andò, Maldini era ancora la bandiera ufficiale del Milan. E Kakà era la bandiera designata, anche perché lui stesso in varie interviste negli anni passati, nei mesi passati, aveva espresso il desiderio di diventare capitano del Milan. Dopo quello che accadde, che era accaduto a gennaio, Kakà ha fatto una scelta, anche perché ovviamente non gli passava per la testa di andare al Manchester City, e da quel momento si era messo il cuore in pace. Il problema vero è che per motivi che posso intuire, ma che lui non ha mai avuto il desiderio di rendere pubblici, e qui secondo me sbaglia, perché Berlusconi dovrebbe spiegare ufficialmente ai tifosi, chiarire che il Milan ha deciso di cambiare strategia. Certo. E il Milan ha voluto a tutti i costi rientrare, quindi saltata, per tra virgolette colpa di Kakà, un'operazione molto più vantaggiosa per il Milan, perché lì si superavano di poco i 100 milioni di euro. Berlusconi ha ovviamente tornato all'assalto adesso, perché il bilancio assolutamente per lui era insostenibile. Per cui diciamo che la soluzione non è spiaciuta a Kakà, ovviamente in questo caso dovendo andare a Real Madrid lui ci è andato, di sicuro non è andato per soldi come invece è stato fatto credere, perché vi posso dire per certo, e sfido chiunque ad affermare il contrario, che Kakà al Milan incassava 10 milioni di euro netti all'anno tra varie voci e aveva lo sfruttamento al 100% della sua immagine. Qui si parla di 9 milioni e mezzo di euro col 50% dei diritti provenienti dalla sua immagine, che saranno di competenza del club. Quindi di sicuro Kakà non se n'è andato per soldi, quindi lascio trarre al tifoso, all'appassionato, chi in realtà ha voluto questa operazione. Ecco Alberto, il panorama qui a Milano è invece questo, ovviamente, ma lo puoi ben immaginare, no? C'è tifosi inferociti, blog, messaggi su internet. Il Milan incassa 65 milioni, facciamo, da questa operazione, quindi facciamo anche 30-35 in meno rispetto a quelli che avrebbe incassato con la cessione di Kakà al Manchester City. Visto che dalla proprietà questa chiarezza non arriva, proviamoci noi, cosa farà, almeno a immaginare, cosa farà il Milan con questi soldi? Rifarà la squadra? Ma guarda, siccome vedo che il progetto di Berlusconi non è cambiato in 5 mesi, allora che sarebbero entrati nelle casse della società 100 e passa milioni, di sicuro questi milioni non sarebbero stati reinvestiti, ma sarebbero serviti per ripianare il bilancio del club. Dubito che, avendo incassato molto meno dei 100 milioni di allora, il Milan decida di spendere questi soldi. Il desiderio di Berlusconi e soprattutto dei suoi figli, in particolare di Marina Berlusconi, è quello che il Milan non costi più niente, non pesi più niente sulla proprietà. E a questo punto si apre un altro discorso, cioè, ma da amministratore qual è, da grande manager qual è? Marina Berlusconi dovrebbe rispondere a questa semplice domanda. È più il risparmio che dell'operazione Kakà, o saranno più i costi dell'operazione Kakà? Perché adesso io mi domando quanto può valere il Milan senza l'uomo che, a detta di Galliani, per tutta la stagione era l'unico veramente decisivo, quello che faceva cambiare volto alla squadra. I lamenti di Galliani per mesi legati all'infortunio di Kakà se li ricordano tutto. Certo. E mi domando, i grandi giocatori, quelli che un tempo al Milan sarebbero venuti anche a piedi, siamo certi che dopo questo ridimensionamento sceglieranno ancora il Milan? Certo. Marina Berlusconi dovrebbe ricordare che l'immagine di suo padre, internazionale e nazionale, è legata tantissimo al Milan. Quindi, secondo me, un manager dovrebbe valutare non solo i risparmi in termini di bilancio, ma anche poi i costi che il Milan sarà costretto, e Silvio Berlusconi credo che abbia anche pagato qualcosa a livello di elezioni, vi dicono il 2,5% esperti del settore, quindi avrebbero dovuto calcolare la famiglia Berlusconi anche i danni che la cessione di Kakà procurerà al Milan nel tempo. Questa è la mia opinione. E anche la mia. C'è chi parla di cessione inevitabile, lo ha fatto lo stesso Kakà, ricordando la crisi economica, ha deciso di uscire di scena da signore come Carlo Ancelotti. Si dice cessione inevitabile, crisi economica, eccetera, eccetera, eccetera. L'obiezione comune però della gente del Milan, ma dei tifosi credo di calcio di tutta Italia, sia: va bene, allora vendiamo Kakà perché guadagniamo un sacco di soldi, perché risparmiamo 10 milioni di euro di stipendio l'anno Kakà, eccetera, eccetera. Però erano inevitabili, così come era inevitabile la cessione, erano inevitabili anche gli acquisti e gli ingaggi di Ronaldinho, Ronaldo, Emerson, Shevchenko bis, Zambrotta. Mi hai preceduto perché il discorso che ho fatto prima sarebbe da completare in questa chiave. Il bilancio del Milan di quest'anno è sicuramente il più pesante dell'era Berlusconi, l'ultimo bilancio, perché sì, sfiora i 68 milioni, 67 qualcosa di euro. È vero che ha inciso la mancata partecipazione alla Champions League, però un'altra domanda è questa: il bilancio di quest'anno è diventato così spaventosamente in rosso per operazioni chiaramente sbagliate, perché il ritorno di Shevchenko e l'ingaggio di Ronaldinho hanno inciso per almeno la metà di questo bilancio, e queste operazioni tutti sanno che sono state volute dal presidente Berlusconi contro il parere di Galliani e di Ancelotti. Quindi Berlusconi, la verità, che ha ceduto Kakà per rimediare dei suoi errori, su questo non è possibile discutere. Alberto, io ti chiedo un'ultima valutazione, che è questa: leggevo oggi sul un corsivo di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, il quale diceva, ma alla fine, mettendo nel pacco anche Ibrahimovic, probabile partente, i campioni vanno via non tanto per guadagnare di più, e Kakà, come abbiamo spiegato, non guadagnerà di più a Real Madrid, semmai qualcosa di meno. Non vanno via per guadagnare di più, ma per divertirsi di più in campionati più belli, più organizzati, più combattuti, più attraenti, più equilibrati, diversi da quello italiano. Certamente, guarda, nel caso di Ibrahimovic condivido, sottoscrivo in pieno questa analisi. Nel caso di Kakà, mi permetto di insistere, il caso è diverso. Kakà va perché è stato Berlusconi, cortesemente, a dargli la spintarella dicendo te ne vai o no, visto che non se n'era voluto andare a gennaio. Chiaramente la soluzione non è dispiaciuta a Kakà, ma è certo che Kakà, dopo aver firmato un contratto quinquennale, aveva scelto, deciso di rimanere qui al Milan. Su questo concordano tutti gli elementi in nostro possesso, insomma. Grazie Alberto, buon lavoro. Prego, grazie. Grazie Alberto Costa, buon lavoro e buon viaggio lì in Sudafrica. Milano, Vito, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, vi volevo fare a nome di tutti, penso la maggioranza dei milanisti, siamo un po' frastornati, perché i conti non tornano. Cioè, vendere Kakà a quella cifra, 65 milioni, che se facciamo un conteggio del patrimonio attuale dei calciatori del Milan, perché arriverà forse a 140-150 milioni, sì, vuol dire vendersi metà del patrimonio, quando il problema è il monte ingaggi, come in tutte, certo, le aziende, uno tenta di ridurre i costi, che i costi sono il monte ingaggi, sì, non vendersi metà del patrimonio. Poi teniamo conto che Kakà ha 27 anni, 65 milioni, 6 anni fa la Juve vendette Zidane 30 anni a 70 milioni, perciò non mi sembra nemmeno sto grande affare. Vito, mi perdoni, la prima obiezione è fondatissima, l'abbiamo già sollevata ora con Alberto Costa. La seconda invece forse da respingere, perché era un momento leggermente diverso, no? C'era un contesto leggermente diverso 6 anni fa, quindi non mi sembrano paragonabili dal punto di vista economico le due operazioni. Prego. Zidane aveva 30 anni, 70 milioni, infatti questo... Ma sei anni fa giravano dei soldi diversi. Va bene, però io non si capisce, perché con 65 milioni, siamo chiari, abbiamo la possibilità al massimo di comprare due ottimi giocatori, perché non un fuoriclasse, perché i fuoriclasse sono altri due, Messi e Cristiano Ronaldo, e si parla di 150 milioni di euro per Messi e 100 milioni per Cristiano Ronaldo. Perciò noi, gli ottimi giocatori partono da 30 milioni, perciò noi al massimo per rinforzarci dobbiamo comprare due ottimi giocatori, cioè perdiamo un fuoriclasse per tentare di comprare due ottimi giocatori. Non tornano i conti sotto tutti gli aspetti. Ma non tornano i conti tanto più che, come si diceva, vediamo se il Milan userà questi soldi per rifare la squadra oppure per ripianare il buco di bilancio. Cosa, ripeto, assolutamente legittima. L'importante sta starebbe nel dichiarare da parte della proprietà un cambiamento di strategia. Perché se fino adesso il Milan era il club che le sue bandiere non le ammainava mai, e abbiamo fatto il distinguo che ritengo appropriato tra il discorso di Shevchenko e quello di Kakà, era il club in cui tutti volevano andare a giocare, era il club che poteva permettersi di comprare qualunque giocatore al mondo, ebbene si può dire tranquillamente: signore, adesso non è più così, si fa un'altra politica e si seguono altre strade. È tutto legittimo, perfettamente legittimo, anzi probabilmente ci si riallinea a quella che è la realtà vera del nostro calcio, però l'importante è essere chiari su questo punto. Non si può dire è Kakà che ha voluto andare al Real Madrid, no, Kakà ha detto mille volte che lui voleva rimanere al Milan e l'ha ripetuto anche nella conferenza stampa di questa notte. Ho le lacrime agli occhi, i tifosi del Milan ho le lacrime agli occhi, però ormai il calcio è questo, c'è crisi economica, l'ha detto Kakà, ci sono problemi economici e dunque è giusto che il Milan mi venda al Real Madrid. L'ha detto Kakà, dovrebbe dirlo la società. Non Kakà è voluto andare a guadagnare di più, perché non è vero. Fausto Lodi, buongiorno. Fausto? No. Allora andiamo a Napoli, da Lodi andiamo a Napoli. Fausto c'è? No, non c'è. Rosario, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, non c'è neanche Rosario, adesso ci riproviamo. Intanto stavo dando un'occhiata ai vari messaggi SMS, a parte che c'è chi dice il vostro anti-berlusconismo è veramente demenziale, eccetera, eccetera, messaggi di questo tipo. Anti-berlusconismo, stiamo parlando di calcio e di sport. Se poi Silvio Berlusconi è il proprietario del Milan, oltre che di molte altre cose, poco possiamo farci. Stiamo semplicemente valutando qual è la questione che è sul tappeto, quali sono le posizioni che sono state prese, e stiamo valutando appunto quello che sarà del futuro del Milan. C'è anche chi scrive: adesso Ronaldinho giocherà meglio senza Kakà, mentre prima non giocava per questa ragione. Dubito seriamente su questo, non giocava per questa ragione, non credo proprio. Credo anzi che Ancelotti abbia visto abbastanza bene nel dire se devo farne giocare uno dei due, beh, allora faccio giocare Riccardino, che qualcosa di più mi ha dato in passato. Saluto e ringrazio Andrea Schianchi, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Cosa ne pensi? Adesso Ronaldinho giocherà meglio senza Kakà, mentre prima non giocava perché c'era Riccardino? L'importante è che Ronaldinho si mette in testa: per giocare a calcio bisogna correre, sì. Questo è il punto, è un punto fondamentale. Se lui capisce questo, allora può darsi che qualcosa di più rispetto al passato lo faccia, perché al di là dei proclami anche presidenziali, Ronaldinho è un fenomeno, Ronaldinho è il nostro fiore all'occhiello. Nel gioco del calcio bisogna correre, se non si corre, Ronaldinho ha corso veramente poco quest'anno, il pallone non si prende mai. Esatto. I primi giorni londinesi di un tuo amico, Carlo Ancelotti. Beh, sicuramente molto contento di essere al Chelsea, sicuramente molto stimolato da questa avventura, anche perché può incidere probabilmente molto di più di quanto non abbia fatto nel Milan nelle scelte di mercato, sta cercando di costruirsi la squadra, soprattutto la squadra che piace a lui. Vuole Pirlo e Pato? Tutte e due, sì. Se può, li prende tutte e due. Credo che l'obiettivo sia quello. Pirlo perché comunque potrebbe affidare, diciamo così, le chiavi della sua nuova squadra a un giocatore che lui conosce perfettamente, e questo sarebbe importante. E Pato perché attaccanti come lui in circolazione non ce ne sono. Secondo te li prende tutti e due? Questo non lo so, sinceramente questo non lo so. Credo che l'offerta del Chelsea per Pato sarà importante e credo che il Milan potrebbe anche essere ingolosito dal fatto di fare una plusvalenza non indifferente, perché se il Chelsea offrisse 50 milioni di euro, ricordiamo che Pato costò 22, quindi ce ne sarebbero più o meno 28 di plusvalenza, quindi potrebbe anche essere ingolosito, non lo so, però sinceramente che cosa intendano fare i dirigenti rossoneri e come intendano costruire la prossima squadra. Secondo te cosa faranno con questi soldi incassati dalla cessione di Kakà? Questi soldi, secondo te, secondo quanto sai, vanno a chiudere il buco o vanno a costruire una squadra? No, vanno a chiudere il buco. È inutile che si illudano i tifosi del Milan che questi soldi servono per comprare un altro giocatore, anche perché non avrebbe senso, sinceramente. Cioè, incassi 68 milioni di euro per quello che è probabilmente uno dei primi tre più forti giocatori del mondo, poi cosa fai? Ne vai a comprare un altro? No, sinceramente non avrebbe senso. Questi soldi servono per coprire il buco, perché la famiglia Berlusconi ha chiaramente dato questo mandato ai dirigenti del Milan, non volendo più ripianare ogni anno il bilancio. Io credo che il bilancio avrebbe potuto essere, diciamo così, meno rosso se non fossero state fatte certe operazioni, e probabilmente a quel punto sarebbe anche potuto tenere Kakà. Mi risulta difficile pensare che il Milan possa essere ad altissimo livello subito senza un giocatore come Kakà e senza un vero ed autentico rinnovamento. Poi è un Milan che, se parliamo in termini imprenditoriali, come abbiamo provato a fare prima, è un Milan che senza il suo giocatore più forte, più rappresentativo, senza la sua vera bandiera per il futuro, vale di meno. Sicuramente vale di meno ad esempio per le amichevoli, quelle dove si comunque raccolgono quel milione, un milione e mezzo di euro, vale di meno probabilmente anche per gli sponsor. Sicuramente il prodotto in questo momento è deprezzato, c'è il vantaggio dal punto di vista economico di avere un bilancio più accettabile, più sano. Mi viene da pensare che il desiderio di mettere a posto il bilancio sia anche in previsione di una futura cessione parziale cessione del pacchetto azionario o di una parte del pacchetto azionario. C'è chi pensa e chi dice che il ripianamento del buco sia il primo passo verso, appunto, un futuro, un assetto societario differente. Allora, questo spiegherebbe diverse cose. Io credo anch'io che siamo su questa linea. Io l'ho scritto, so anche che Galliani si è molto arrabbiato per queste cose, ma se ne deve anche poi fare una ragione, nel senso che lo hanno scritto poi altri giornali, non ultimo il Sole 24 Ore domenica, che mi pare essere un giornale piuttosto autorevole per quanto riguarda le questioni economiche, quindi non è soltanto la Gazzetta dello Sport a scriverlo, ma sono anche altri quotidiani, quindi probabilmente qualche cosa c'è, anche perché le informazioni che abbiamo noi e che hanno anche evidentemente altri colleghi di altri giornali come Sole 24 Ore non difficilmente possono essere smentite. Poi è chiaro che finché non c'è una firma o finché non c'è un annuncio ufficiale, certo, logico che io non credo ci sia da qui a 2 anni, sono anche molto sincero, non credo che questa sia una cosa che venga fatta subito, ma credo che sia una cosa che andrà avanti perlomeno per un paio d'anni, da quello che mi risulta. Risulta anche a noi. Grazie Andrea. A presto. Grazie a voi. A prestissimo. Grazie ad Andrea Schianchi, inviato della Gazzetta dello Sport. Vediamo se riusciamo a parlare con Fausto Dalodi. Ci ho provato prima, vediamo se ci riesco adesso. Sì, buongiorno signor Genta. Buongiorno. Io volevo fare solo 2 semplici domande, nel senso, non me ne intendo molto di finanza, assumo la mia ignoranza, ma in Inghilterra e in Spagna i bilanci non si guardano, nel senso, ci sono le squadre inglesi che hanno dei bilanci disastrosi. Tutte le spagnole, se si esclude le prime due, c'è anche il Valencia che è sull'orlo del fallimento, e lì si può continuare con questa tendenza di mercato, di cifre. E poi la seconda domanda, visto che il Milan ultimamente non ha più risultati, tra quanto secondo lei il suo amministratore delegato inizierà a fare la morale ad altre squadre che magari qualcosa hanno vinto in questi anni su questioni di bilancio? Una frecciata, tutto lì, grazie, buongiorno. Grazie a lei, a Fausto. Allora facciamo così, nei prossimi giorni, visto che mi sembra un fronte interessante, proveremo a citofonare al piano di sopra i colleghi del Sole 24 Ore e ad approfondire bene questi discorsi relativi ai bilanci del Milan, alle prospettive che possono aprirsi per il club Milan con questa cessione di Kakà, perché insomma un conto è cedere il giocatore per ripianare il buco e fare delle politiche societarie e calcistiche diverse, legittime, ripeto, a patto di fare una dichiarazione di intenti. Un conto è seguire una strategia diversa che può portare ad esempio verso una cessione del club o di un pacchetto azionario consistente del club Milan. Quanto all'estero, questo è vero perché anche all'estero non navigano nell'oro, anche all'estero hanno dei debiti seri, pesanti e consistenti. È anche vero che i club inglesi, i club spagnoli vivono una realtà diversa essendo proprietari di strutture, essendo proprietari di beni immobili, essendo proprietari di centri di allenamento, essendo proprietari di qualcosa di meno volatile che non siano i cartellini o i contratti dei giocatori, quindi la realtà è ben differente. Questo non vuol dire che là stiano benissimo e qui siano tutti con le pezze da sedere. Il discorso è da approfondire in questo senso. Un sacco di messaggi, mi risulta ci sono anche diversi ascoltatori in linea, 800240024, vi ricordo il numero verde. Beh, lacrime agli occhi di una persona che guadagnerà 9 milioni di euro all'anno sono una cosa oscena agli occhi di chi come me si guadagna a fatica uno stipendio onesto. Abbiate la cortezza di non mettere nel risalto Maurizio, sì, però ma anche di non fare della facile demagogia, perché insomma non può essere che un ragazzo di 27 anni piaccia giocare in un posto, lavorare in un club, avere certi compagni di squadra, fare una certa vita, vivere in una certa città, eccetera eccetera eccetera, e possa essere dispiaciuto di andare a lavorare, a giocare, a vivere da un'altra parte quando magari non ne aveva voglia. Uno deve avere sempre il sorriso stampato in faccia qualunque cosa gli dicano di fare. No, può dire preferivo rimanere al Milan, vado al Real, certo non va in prigione, va in un grandissimo club, però è del tutto legittimo che dice mi dispiace di andare via dal Milan. I soldi con questo discorso c'entrano credo pochino. Giorgio, provincia di Livorno, finalmente riusciamo a salutarci. Sì, salve, salve. Niente, io volevo dire una semplice cosa, che dispiace tantissimo di perdere questi grandi campioni che indeboliscono il nostro campionato sia nazionale che internazionale, però abbiamo forse ancora la fortuna di prendere dei ragazzi che poi danno delle soddisfazioni, no? Vedi Pato. Sì. Quindi Balotelli, Santon, insomma riusciamo ancora a scoprire dei talenti che danno soddisfazioni e almeno questo non dovrebbe mai finire, perché sì, se poi finisce anche questa roba qui, allora là sì che veramente dovremmo appendere le scarpe a chiodo tutti. Sì, volevo dire questi giocatori adesso ci sono, domani vediamo, perché comunque se il campionato italiano, che già non è il massimo del fascino estetico, rischiasse di perdesse in una volta sola Kakà, Ibrahimovic, magari Lavezzi, magari qualcun altro, è chiaro che hai voglia di continuare ad andare a scoprire o a provare a scoprire talenti qua e là, però l'indebolimento e il depauperamento sarebbe evidente, no? Così come è evidente l'impoverimento del prodotto Milan, si diceva prima, con la partenza di Kakà. Andrea, Udine, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, grazie per darmi la possibilità di intervenire. Volevo dire due cose velocissime. Prego. Cioè, io sono un juventino, quindi se Kakà è nato Real, ci scatto, non mi dispiace, non sono dispiaciuto. Però penso che sinceramente il Milan fa bene a prima di tutto sistemare i conti, se sono così in rosso. Sì. Punto numero due, il Milan è da anni che non inserisce un giovane in squadra. La squadra, guardiamo il centrocampo, abbiamo Seedorf, Ambrosini, Pirlo, tutti i giocatori di 30 anni, negli ultimi anni non ha mai inserito nessuno. Ma infatti Andrea, quindi... guardi che sarebbe, se chiarissero che la politica societaria è questa, cioè c'è bisogno di risistemare il bilancio, che ha un buco pauroso, 68 milioni di euro sono un sacco di soldi, c'è bisogno di sistemare il bilancio, il Milan vuole essere un club che si autofinanzia, si autogestisce, si autoalimenta, che vuole modificare strategie societarie per puntare, che so, su un ringiovanimento, su un nuovo corso, magari anche a lunga scadenza. Ma guarda che va tutto bene, ma secondo lei c'è qualcuno che dice no, fa male perché doveva rimanere con il collo piegato sotto 68 milioni di euro di debiti? Non lo fa nessuno. Però se il Milan dice è cacà che è voluto andare via, questi soldi adesso prendiamo Dzeko, abbiamo Ronaldinho che è un fenomeno assoluto, paghiamo 4 milioni di euro l'anno a Dida non si sa perché, beh, allora c'è qualcosa che non va da questo punto di vista. Io sono il primo a dire fan benissimo se chiudono i debiti, ma ci mancherebbe altro. Basta, no, dica. Sicuramente no, volevo solo dire che la società prenderà tempo, ma le idee sono quelle. I prossimi anni il Milan deve partire da basi diverse, come ha fatto la Juve magari nell'arco di 2-3 anni, e poi adesso si può permettere magari di comprare un giocatore un po' alla volta e di rinforzare la squadra con dei giovani e anche dei fuoriclasse. Perfetto, ma guardi che se facessero questo discorso chiaro ai tifosi del Milan, guardi che non penso in pochi e quelli che contano di meno sarebbero così arrabbiati, mi creda. Sono arrabbiati proprio perché dicono vabbè, adesso ci vendono il giocatore che abbiamo di più e ci tengono quegli altri che costano un sacco di soldi e che non, insomma, come minimo non riescono ad accendere i nostri cuori. Beh, è questo che stona. Pierluigi Milano, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti gli radioascoltatori. No, io sono un milanista. Non è vero che siamo arrabbiati, nel senso che ci sta che una società faccia del rinnovamento, ci sta che la società per questioni di bisogno venda grandi campioni. Ciò che non ci sta è come viene gestita l'informazione per rispetto dei tifosi. Il dover aver aspettato comunque il termine delle elezioni per dare la notizia di Kakà e farla dare direttamente da lui, ecco, questo un po' dispiace. Se c'è una brutta notizia, noi tifosi sarebbe stato bello, ecco, averla dalla società, perché potremmo essere stati magari maturi nell'accettare questo rinnovamento, perché l'unico rammarico su Kakà è non averlo venduto prima, ecco, forse, anche se dispiace perdere un giocatore legato alla società. Sì, sono d'accordo con lei. Poi questo rinnovamento di cui lei parla, vediamo se si concretizzerà oppure no. Massimo Genova, buongiorno. Isaia, provincia Milano, buongiorno. Buongiorno Togenta, devo dire, vendiamo Kakà 65 milioni di euro, vendiamo Goku fa 15 milioni di euro, ma dov'è 80. Il futuro del nostro Milan? A livello televisivo cosa pensa di vendere? A livello di abbonamenti cosa pensa di vendere? È un deprezzamento totale della società Milan. Sì, sono d'accordo. A livello... Va bene, buongiorno. Sono d'accordo. No, buongiorno a lei, ma sono domande che non deve rivolgere a me, perché io sono d'accordo con lei, mi unisco anzi nel rivolgere queste domande ad un interlocutore adeguato, che non sono certo io, perché sono punti di discussione, sono punti da risolvere, però non sono certo io, non è certo lei, non sono certo i tifosi del Milan a dover chiarire questi dubbi che rimangono ancora sul tappeto. Vi aspetto, Massimo c'è? Allora, no, non c'è Massimo, ma comunque abbiamo ancora tempo, 800240024. Adesso per variare un po' argomento, anche perché ne ho abbastanza voglia, vorrei salutare e ringraziare Flavio Tranquillo, aprire un capitolo sul basket. Flavio, ciao, ci sei? Buongiorno, dottor Genta. Buongiorno a lei, dottor Tranquillo. Florentino come un ciclone sulla polisportiva Real. Non solo Kakà, ma anche Messina, Ettore Messina, che ha dato l'addio al CSKA di Mosca. E adesso lo aspettiamo alla Casa Blanca insieme al suo idolo, cioè Riccardino Kakà. Sicuramente Messina è uno di quelli che interverrebbe volentieri, perché le cose del Milan le prende a cuore. Adesso con Kakà potrà parlare tutti i giorni e togliersi qualche curiosità. Adesso, tra poco, insomma. Senti, fenomeno Real non replicabile dalle nostre parti. Polisportiva Real, qualcuno ci ha provato, mi pare, dalle parti di Milano senza grandi risultati, con risultati quantomeno rivedibili. Sì, anche perché in linea di massima, anche se la distanza è elevata tra calcio e altri sport, pure in Spagna è molto elevata, probabilmente non è così elevata come qui. Senti Flavio, vorrei la tua opinione invece su un altro punto, tra virgolette, filosofico. All'estero non per guadagnare di più, ma per vivere un ambiente migliore, per divertirsi di più, per giocare in campionati più competitivi. Credi che questo discorso possa valere anche per il basket, che ogni anno subisce degli impoverimenti del suo patrimonio, perché i più bravi vanno a giocare da altre parti? Credi sia questo o pensi sia più un discorso economico? Ma adesso ti posso fare dei riferimenti alla pallacanestro, posto che poi ci sono, certo, casi e casi, non so quanto e se applichino al calcio. Il riferimento alla pallacanestro, siamo fortunati, ne abbiamo appena parlato, è Ettore Messina. Puoi chiedere a Ettore Messina se quanto gli manca l'Italia tutti i giorni, tanto è la risposta. Puoi chiedere se quanto gli manca l'Italia lavorativa, non così tanto, per usare un giro di parole. Lui, che probabilmente un po' più diretto, saprebbe non usare dei giri di parole. Poi è ovvio che di fronte a un'offerta che è il doppio, il triplo, il quadruplo, quella ha il suo peso. Però io credo che se il sistema italiano fosse competitivo da altri punti di vista, soprattutto un italiano o uno che si è innamorato dell'Italia, magari per un 10% in meno, dico per dire, se la gode in Italia. Invece mi sa che anche per questo 10% non se la gode, perché ogni tanto si tende a non godersela, un po' per la pressione che è esagerata e un po' perché il livello dell'organizzazione non sempre è ottimale. Certo, mi dà fastidio che si faccia della demagogia invece sui soldi che guadagnano gli sportivi, ma so che dà fastidio anche a te. A me dà più che fastidio, è ovvio che mi piacerebbe guadagnare quello che guadagnano Kakà e Kobe Bryant, ma è il loro valore di mercato, glieli danno e si ragiona secondo quel valore di mercato. Anzi, direi che Kakà e Kobe Bryant sono Kakà e Kobe Bryant anche perché guadagnano quello, se non soprattutto. Ma naturale. Noi, Flavio, tranquillo naturalmente, e parliamo di quello che vedremo stanotte, ore 3 italiane, una finale NBA che sbarca a Orlando, con l'impressione che rimane che Orlando abbia perso l'occasione forse per riscrivere la storia sua e di questa serie finale, Flavio, l'altra sera. Beh, decisamente è un'occasione persa, perché quando perdi la partita ai supplementari puoi andare a rivedere 10, 20, 30 situazioni in cui facendo questo o non facendo quell'altro avresti potuto vincerla. Però è anche vero che si è giocato a Los Angeles su un palcoscenico che era probabilmente difficile psicologicamente per tanti giocatori dei Magic. Adesso si torna a casa. Se stasera i Los Angeles Lakers giocano per vincere e vincono, è finita la serie, punto. Se stasera invece fanno un po' fatica a farlo, anche perché c'è il viaggio di mezzo, perché gli Orlando Magic sono gasati, perché magari qualcuno di quelli che a Hollywood faticava a trovare la sua parte la trova vicino a casa, allora è una serie che può rischiare, può tendere ad allungarsi, perché i Magic hanno tutte le possibilità teoriche, tecniche e tattiche di darci una serie. Con l'impressione, altra impressione rimasta da gara 2, che le stelle abbiano fatto grosso modo, chi meglio, chi un po' meno bene, la loro partita, entusiasmante o meno, da una parte e dall'altra la differenza sia un po' stata negli altri. Assolutamente sì, al 110%, e per altri intendiamo soprattutto le guardie di Stan Van Gundy, certo, il Jameer Nelson, il Courtney Lee, il Rafer Alston, il Michael Pietrus, il JJ Redick. Questi sono 5 giocatori che stanno viaggiando col 29%. Basta prendere Pietrus, è vero che qui è piuttosto impegnato difensivamente da Kobe Bryant, ma non è che LeBron James lo facesse riposare nella serie precedente e ha fatto 14 punti di media col 48 da 3. Qui ha già tirato 4 cross a 2 metri dal ferro. Flavio, per chiudere, domani il rapporto tra di noi che resterà stretto nei prossimi giorni, domani da noi sulla palla 2 anche per le finali scudetto, del nostro scudettino. Per Milano un punto di partenza, ho l'impressione, la finale domani conterà quello che l'Olimpia riuscirà a costruire, credo, da ora in poi nel suo futuro. Sì, non c'è dubbio, e conterà anche se gioca con un certo tipo di maturità questa finale, eventualmente anche perdendola come vuole qualsiasi educato pronostico, e allo stesso tempo non ritiene di essere arrivata in finale perché è un punto d'arrivo o un punto parziale di arrivo. Se guarda laicamente a quello che è successo, sa di essere arrivata in finale perché occupava una parte del tabellone positiva e perché si è meritata di battere Teramo e Biella come le ha battute. Però ripeto, non può essere, come dicevi tu giustamente, un punto di arrivo neanche parziale, ma un punto di partenza. Flavio, grazie, alla prossima, sentiamo prestissimo. Yes sir. Grazie davvero, grazie a Flavio Tranquillo e buon lavoro, perché questa notte ore 3, ripeto, gara 3 di finale NBA a Orlando. Io vorrei continuare a parlare con gli ascoltatori, abbiamo ancora dunque 7 minuti direi. Massimo da Genova, Giovanni da Palermo, Enzo provincia di Macerata, 800 24 0024 è il numero verde. Genova, Massimo. Buongiorno dottor Genta. Buongiorno. Io vado un po' controcorrente, cioè dal momento che non è che possiamo vedere in tutta Italia Juve, Milan e Inter, il fatto che si indeboliscano mi fa molto piacere. perché vanno via i giocatori, va via Ibrahimovic, vanno via gli allenatori. E io come genuano incomincio a pensare che in un anno o due possiamo giocarcela anche noi. Sì, questo però è un discorso da tifoso, giusto? Certo. Sì, certo. Sì, ma è del tutto legittimo, eh. Però vede, io quando vedo giocare il Genoa mi diverto. È da tre anni che mi diverto a vedere giocare il Genoa, perché abbiamo un gioco. Sì, Quindi penso che sia giusto essere premiati. Sì, anche se rimane il discorso che si faceva prima, che ha fatto in maniera approfondita Mario Sconcerti sul Corriere della Sera di oggi, pagina 56, non fuggono per soldi ma per potersi divertire. Sì, vero. Perché allora ci troviamo di fronte a un campionato che nel complesso vale non tantissimo, no? Dal punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista di ciò che c'è dentro, dal punto di vista anche degli equilibri, perché io sono d'accordo quando Sconcerti scrive manca il bilanciamento tra la concorrenza. Siamo diventati un campionato uniforme. Tra il 92 e il 2003 Capello e Lepi hanno vinto 10 scudetti, l'Inter ha perso 8 partite nelle ultime 144, la Juve forse avrebbe fatto la stessa cosa se non fosse stata fermata. Che campionati sono questi? È chiaro che stiamo assistendo a gare molto virtuali. Credo che Ibrahimovic sia fondamentalmente avido, ma che abbia perso interesse a giocare dove vincere è quasi naturale. Più che poveri siamo monotoni, quindi scorretti, non stimoliamo la concorrenza, la affondiamo. Il risultato è che gli stessi calciatori vogliono andare dove possono divertirsi di più. E io credo che senza questi giocatori ci si finisca per divertire un po' di meno tutti quanti. Ecco, al di là dei discorsi legittimi e anche giusti di bandiera. Grazie Massimo. Giovanni da Palermo, buongiorno. Giovanni? Pronto? Eccomi, io ci sono, e lei? Buongiorno a tutti. Allora, io innanzitutto sono un tifoso dell'Inter. Guardi, questa vicenda di Kakà e tutto ciò che gira un po' attorno a Ibrahimovic, io ritengo che noi dobbiamo essere un po' dei tifosi comunque con una certa capacità di riflessione, perché vi chiedevo la possibilità di una proiezione di quanto potrà guadagnare il Kakà di 30 anni, fa 30 anni, ecco, perché a me sembra che c'è una sorta di crescita, come dire, gioco al rilancio per quanto riguarda gli ingaggi. Non è soltanto una questione di soldi, è tutto un sistema che va a crescere. Sì. E da questo punto di vista io penso che una operazione da parte di un club, in questo caso il Milan, che decide in qualche modo di essere un po' più equilibrato, di non far crescere oltre, perché comunque ci sono degli squilibri, a me sembra che sia qualcosa di lodevole. E che il problema è che ci sono le offerte per questi giocatori, sì, da parte di altri club che forse probabilmente potrebbero anche avere degli indebitamenti. Mentre lei mi dice un Dida che guadagna 4 milioni di euro a stagione o giù di lì, forse qualcosa in più, non interessa a nessuno. Legittimo, però qualcuno ha fatto il contratto a Dida con quei soldi, qualcuno fa il contratto a Ronaldinho con un sacco di soldi. Fate a vendere Ronaldinho, se ci riuscite, a quei soldi. Sì, no, ma dico, in ogni caso, una proiezione di quanto nel tempo, fra 30 anni, cresceranno gli ingaggi, perché a questo punto io non, guardi, da interista desidero che vendano Ibrahimovic, e io non me ne faccio nulla della Coppa dei Campioni, io voglio vedere che ci sia qualcosa di più, un attaccamento alla maglia, riescano a creare anche gioco, che me ne faccio io di un presidente che paga perché può pagare, poi compra i migliori giocatori e poi vinciamo. È normale vincere? Sì, normale magari no, però io capisco il fondo di quanto lei dice. L'unico progetto di questo tipo, se così si può dire, l'unico progetto che abbia questo tipo di matrice è quello della Roma, cioè giocatori che sono cresciuti nel vivaio, che sono diventati grandi con quella maglia, che sono ovviamente legati a quella maglia, che creano un feeling particolare con i tifosi. Infatti la Roma non a caso è stata da questo punto di vista l'unico vero esempio italiano. Poi resto che vincere sia facile non ci credo, neanche se hai tutti quei soldi da spendere. Enzo, provincia di Macerata, buongiorno. buongiorno. Io sono un tifoso del Milan, chiaramente dispiaciuto della partenza di Kaká, però volevo dire, a parte che i primi due intervenuti mi hanno un po' bruciato l'intervento, però volevo dire che questa situazione di indebolimento delle tre maggiori squadre italiane non può far altro che bene al campionato italiano, in quanto concorrenza si farà di necessità virtù, si valorizzeranno i giovani, si cercherà di prendere qualche sconosciuto per poi valutarlo, come ha fatto il Milan all'inizio dell'era Berlusconi, insomma, con qualche italiano, qualche straniero, e ci divertiremo in Italia e meno in Europa. Ma lei è sicuro? Ma lei è sicuro? Ma è sicuro che andrà così? Beh, io onestamente è molto tempo che non vado più a partire, perché nonostante Bologna mi sia vicino, insomma, mi sembrava già scontato il fatto che il Milan vincesse a Bologna, e invece magari se il Bologna o il Genova o la Fiorentina o anche la Roma, perché io penso che la Roma abbia un buon progetto alla fine, può rimettersi in carreggiata e quindi lottare per lo scudetto e far a un livello minore diventare tra virgolette più interessante il campionato, sì, in qualche partita. Ce lo auguriamo tutti. Il problema è che rimangono lì, rimane qualche dubbio sul fatto che poi andrà veramente a finire così, perché non, almeno se parliamo di Milan, non risulta che queste siano le intenzioni. Se è vero che, come è stato da più parti dichiarato, compreso la stessa proprietà, il simbolo del Milan che verrà è Ronaldinho, giocatore che ha 29 anni, che insomma da tre stagioni non è più quello che vediamo nei filmati e che comunque guadagna non pochissimo. Emiliano, Torino, e poi chiudiamo. Salve. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno, dica. Buongiorno, complimenti innanzitutto. Grazie. Niente, io volevo solo esprimere un mio parere. Secondo me, visto che Silvio Berlusconi, io sono tifoso del Milan, è un grandissimo imprenditore, io avrei preferito a questo punto vendere Kakà a 105 milioni di euro che a 65. Sì, anche il Milan, il problema è che Kakà ha detto io là non ci vado, io in Inghilterra non ci vado a giocare nel Manchester City in una squadra da costruire che chissà quando sarà pronta per vincere. È chiaro che il Milan avrebbe preferito venderlo in quell'occasione. Kakà da un annetto comunque non è più lui, ecco. Io non vorrei che magari sotto sotto, non si può magari dire ai tifosi, ma ci fosse anche qualche problemino magari fisico che può saltare fuori ogni tanto, più sovente del solito, ecco. Allora facciamo così, tra un anno vediamo cosa ha combinato Kakà con il Real Madrid e poi ne riparliamo. No, io non credo, io credo che Kakà, al di là degli infortuni e ciechi che ha avuto, cosa tutto passeggera e risolvibile, stia benissimo e sia e rimanga uno dei, non lo so, qui dipende dai gusti, però tre più forti giocatori del mondo di sicuro. Grazie a tutti gli ascoltatori, torniamo domani dalle 14 alle 15, adesso c'è il GR, poi la palla passa al direttore Fabi e allo speciale elezioni europee ed amministrative. A domani.